Station. Present Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh and you're listening to Tam Tam Europe. Phil, the rock messa in onda tre volte al giorno on Radio 2 The Moving Station. Sono tanti gli artisti che usano l'internet per avere un contatto con i loro fans e Jim Caparo, il direttore della casa discografica Island e Def Jam, ha raccontato come i Bon Jovi hanno approfittato di questo mezzo negli ultimi mesi, trasmettendo l'immagine girata in studio durante le prove. Seeing the band perform live again was the turn on that everybody needed. Per quelli che già conoscono i Bon Jovi, li ha ricordato perché hanno venduto 90 milioni di dischi, mentre per quelli che non li conoscono ancora, li ha fatto capire che sono uno dei migliori gruppi dei rock esistente. Allora sicuramente è una buona promozione per il loro nuovo album Crush. Vi ricordiamo il nostro website www.radiotour.it. From Tam Tam Europe, our news desk in London, and from Fergal Kavanagh, vi lascio con i Bon Jovi dal qual... Tour, the moving station. Present Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh and you're listening to Tam Tam Europe. Questo pillole che vanno in onda tre volte al giorno sono preparate dalla nostra redazione di Londra nel cuore dell'Europa. Molti credono che Liebling sia il primo album di Andreas Johnson, mentre invece il sua attività risulta anche un altro titolo da 5 anni fa, Cotton Fish Tales. Si tratta di un album acustico in stile country come Neil Young, che è uscito solo in Svezia. Andreas racconta che all'epoca, vivendo in campagna, non poteva fare un album se non in quale stile, poiché riceve sempre ispirazione dall'ambiente in cui si trova. Quello che andiamo ad ascoltare adesso è l'Andreas Johnson sotto l'influenza di Stockholm, la capitale svedese, dove attualmente risiede. E anche se parla svedese, spiega che gli viene naturale cantare in inglese, perché instead of singing me nursery rhymes, my mother sang me Gershwin and Cole Porter songs. E noi lo ascoltiamo subito. Per adesso è tutto da Tam Tam Europe, dalla nostra redazione a Londra e da Fergal Kavanagh. Vi lascio con Glorious di Andreas Johnson. Ciao, alla prossima. Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everyone, this is Fergal Kavanagh e benvenuti a Tam Tam Europe. In questo pillole che vanno in onda tre volte al giorno, raccogliamo le notizie preparate dalla nostra redazione di Londra e ve la proponiamo con rock e non solo. Arriva la notizia dell'uscita del primo album dai giovani Coldplay, che sarà nei negozi a luglio. Si intitola Parachutes ed è stato presentato dalla casa discografica come uno tra i migliori album del debutto di quest'anno, definendolo mellow and tuneful. E come avrebbe potuto dire altrimenti? Comunque, i Coldplay hanno programmato 9 concerti nel Regno Unito a giugno e suoneranno anche al Festival di Glastonbury. Si dichiarano molto felici di essere tornati alla ribalta dopo aver annullato parte del loro tour a marzo a causa del mal di gola del cantante Chris Martin. Our website is at www.radiotour.it. Send me an email if there's anything you'd like to hear. Do Fergal Kavanagh e Tam Tam Europe è tutto. Vi lasciamo con i Coldplay e il loro primo singolo Shiver. Alla prossima. Tam Tam Europe. Thank you. So I look in your direction, but you pay me no attention to you. Don't listen to me, 'cause you say you see straight through me, don't you? But on and on, from the moment I wake to the moment I sleep, I'll be there by your side. Just you try and stop me, I'll be waiting in line just to see if you care. I need you, but you never even see me, do you? And is this my final chance of getting? But on and on, from the moment I wake to the moment I sleep, I'll be Shiver, grazie anche a Ferga Kavanagh che si collegherà con noi per, dalla redazione di Londra più tardi intorno alle 22:10. SPOT. Radio Tour, the moving station. Present Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh and you're listening to Tam Tam Europe. Il Lidl Rock Mess in onda tre volte al giorno on Radio Tour, the moving station. Il vocalist di Apollo 440, Mary Mary, ha avuto una carriera molto lunga. Già negli anni 80 era il frontman di Gay Bikers on Acid ed il suo gruppo attuale ha già avuto più di 10 top 10 hits. In un'intervista la chitarrista Noko racconta quanto siano importanti gli Apollo Apollo 440, dicendo: ci consideriamo parte di una tradizione che risale a Robert Johnson o J.S. Bach. Un singolo dovrebbe essere un mini symphony. Ti porta indietro fino a Brian Wilson dai Beach Boys o George Martin dai Beatles. Stop the Rock manages to get high culture and sheer idiocy into 3.5 minutes. E potete ascoltarlo adesso su TamTam Europe. Vi ricordiamo il nostro website www.radiotour.it. From TamTam Europe, our news desk in London, and from Fergal Kavanagh, vi lasciamo con Apollo 440 e Stop the Rock. Alla prossima! TamTam Europe. Su Tuora 22:15, 16:07, grazie a Ferga, alla nostra redazione di Londra. Un altro appuntamento con TamTam Europe che torna domani intorno alle 17:10. Adesso piccolissima pausa, torniamo subito dopo con R. Ti presento sempre SPOT Spot Radio Tour, the moving station. Present TamTam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh and you're listening to TamTam Europe, il di rock messo in onda 3 volte al giorno on Radio 2 The Moving Station. E arriva una notizia sorprendente dalla nonna del rock. Sembra che Tina Turner ha assicurato il proprio corpo per 8 milioni di dollari, cioè oltre 16 miliardi di lire italiane. Nonostante abbia deciso di non fare più concerti, visto che ormai va per i 60 anni, non vuole correre rischi negli ultimi anni della sua vita. Per farci un'idea di quanto sia importante ogni singola parte del suo corpo, possiamo dare un sguardo alle relative cifre dell'assicurazione. Il volto vale $790,000, il senno $800,000, la voce $3,2 milioni e le gambe $1,5 milioni l'una, cioè più di 3 miliardi a coscia. Pazze queste rockstars. Vi ricordiamo il nostro website www.radiotour.it. From TamTam Europe, our news desk in London, and from Fergal Kavanagh, vi lascio con un brano di Anouk che dedichiamo a Tina Turner, intitolato Ci stai prendendo in giro? Are you kidding me? Alla prossima. TamTam Europe. Che abbiamo ascoltato grazie alla proposta della nostra redazione di Londra, quindi grazie anche alla pillolina TamTam Europe per il nostro Fergal. Alle 17:15 siete su Radio Tour, The Moving Station. Io sono Jackie, regia ci segue Gino Nunzio, facciamo una piccola pausa, tra poco la consegna del bacio in tour. SPOT Spot Radio Tour, The Moving Station present TamTam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh and this is TamTam Europe, your daily dose of rock, broadcast 3 times a day, keeping you up to date with what's going on in the world of rock e non solo. Sembra che, nonostante i Red Hot Chili Peppers cercano di evitare polemiche, siano le polemiche a trovare loro. L'anno scorso il cantante Anthony Kiedis ha vinto una causa contro una signora che lo ha travolto mentre andava in motocicletta. Kiedis sostiene di aver riportato danni ortopedici e neurologici permanenti. Poi in Irlanda una ragazza è stata colpita da una bottiglia di whisky ad un concerto dei Red Hot Chili Peppers e siccome il promoter avrebbe dovuto impedire la presenza di alcolici al concerto, anche lei si trova con un bel accordo giudiziario economico. Dopo tutto questo, adesso è arrivata la notizia che i Red Hot Chili Peppers faranno parte del Rolling Rock Town Fair a Pennsylvania in August, che dovrebbe vedere anche la partecipazione di Filter e di Moby. Il problema è che anche qua c'è una causa in corso, questa volta per impedire l'esibizione, anche se quasi tutti i biglietti sono stati già venduti e non si sa se andrà in porto o meno. Il promoter Darfin Wolf è convinto che vincerà, dicendo The Rolling Rock Town Fair is not only on, but it will be the concert event of the summer. Questo è tutto per ora, se mi volete mandare un'email segnate questo indirizzo fergal@radiotour.it. Da TamTam Europe, dalla nostra redazione di Londra e da Fergal Kavanagh è tutto. Vi lascio con i Red Hot Chili Peppers e Around the World. Alla prossima. TamTam Europe. Peppers, singolo che abbiamo ascoltato grazie a Fergal da Londra, quindi ringraziamo lui per questa pillolina di Tam Tam Europe e anche la nostra redazione di Londra. Vi ricordo che siete su Radio Tour, The Movie Station, facciamo una piccola pausa e tra poco ci sarà la consegna del bacio in tour. S-P-O-T, Spot. Radio Tour, The Movie Station. Present Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello there, this is Fergal Kavanagh on Tam Tam Europe on Radio 2 The Moving Station, bringing you the best news and altre cose dalla nostra redazione di Londra. Uno dei più grandi star del rock, Tom Jones, è sulla scena ormai da più di 30 anni. Nei primi anni della sua carriera, le donne si divertivano a lanciargli le mutande sul palco durante le sue performance, e questo trend continua ancora, anche se Jones non è più giovane e sexy come una volta. Arriva la notizia che un paio di mutande, con le quali Jones si è asciugato il sudore durante un concerto, è stato incorniciato e messo sotto vetro per diventare un vero pezzo di storia. È successo che una signora ha lanciato il suo slip sul palco e il vecchio Tom, bersagliato dall'ennesimo pezzo di lingerie, ha messo un po' di sudore e ha rilanciato alla legittima proprietaria. Ed il marito della signora ha colto l'occasione a volo a farle un grande regalo di compleanno. Ed in suo onore, noi su Tam Tam Europe vi facciamo ascoltare Tom Jones con Nina Persson dai Cardigans. Se ci volete segnalare gruppi di ascoltatori, chiamateci al 081 790 1411 o inviate un messaggio al 0348 24 38 888. Da Tam Tam Europe e Fergal Kavanagh vi lascio con Tom Jones and the Cardigans e Burning Down the House. Ciao, alla prossima. Tam Tam Europe. Oh! prima gli Snap con Rhythm is the Dance su Radio Tour e poi Bad Parents e The World e poi il collegamento con la redazione di Londra e Tantam Europe con i Cardigans e Race and Rewind. Una piccola pausa, grazie a Ferga, ci sentiamo subito dopo con House of Glass e Disco Down. S-P-O-T Spot Tour, the moving station. Present Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh bringing you the best news in rock and non solo su Tam Tam Europe. Tre pillole al giorno preparate dalla nostra redazione di Londra nel cuore dell'Europa. Attività nello studio per i Manic Street Preachers hanno chiesto all'artista punk dance David Holmes di produrre due brani del nuovo album sul quale stanno lavorando nel Rockfield Studios del loro Galles. Il cantante James Dean Bradfield si è dichiarato un grande fan del vecchio lavoro, ma un portavoce di Holmes ha detto si sono parlati e la cosa interessa a David, però non possiamo dire di più al momento. Holmes ha appena pubblicato il suo nuovo album Bow Down to the Exit Sign, quindi sarà molto impegnato per il momento. E se ci volete segnalare gruppi da ascoltare, chiamateci alle 081 790 1411 o inviate un messaggio alle 0348 24 38 888. Vi lasciamo con The Manic Street Preachers e You Stole the Sun from My Heart. Da Tam Tam Europe e Fergal Kavanagh, ciao, alla prossima. Tam Tam Europe. Oh, grazie a Fergal Kavanagh e alla redazione londinese di Radio Tour The Moving Station, l'unica radio in movimento. Insomma, siamo o non siamo una radio in movimento, sempre attenti alle nuove, alle mode, alle tendenze, a quello che arriva ad oltremanica da un paese splendido, l'Inghilterra, in questo caso era una città che è straordinaria ed è così fonte di mode, di tendenze nell'ambito del costume, della musica e quant'altro. La capitale più trendy d'Europa, Londra. Prossimo appuntamento con Tam Tam Europe intorno alle 22:10. SPOT. Tour, the moving station. Present Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh e voi state ascoltando Tam Tam Europe, pillole di rock e altro che vanno in onda tre volte al giorno. Shirley Manson, cantante di Garbage, si è messa in internet a raccontare del suo problema di automutilazione, di cui si dice soffrono anche Courtney Love, Christina Ricci e Fiona Apple. L'automutilazione è quando uno si fa male volontariamente procurandosi una cicatrice. Dicono che dal 1 al 5% degli adolescenti è afflitto di questo problema pericoloso, e Shirley ha ammesso che ha cominciato durante gli anni di pubertà, a 12 o 13 anni, ma da quando è diventato un musicista, stare sul palco mi ha dato il controllo e l'emozione che mi dava di procurarmi delle ferite, ma ho ancora il desiderio di farmi del male ogni tanto. Parole di Shirley Manson dei Garbage, che consiglia: la cosa migliore per chi ha questo problema è parlarne. Forse ora che io l'ho fatto, per qualcuno andrà meglio. Se ci volete segnalare gruppi da ascoltare, chiamateci al 081 790 1411 o inviate un messaggio al 0348 24 38 888. Vi lasciamo con le voci di Shirley Manson con il Garbage e I Think I'm Paranoid. So Fergal Kavanagh, ciao, alla prossima. Tam Tam Euro. I think I'm paranoid and complicated. Present Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh and you're listening to Tam Tam Europe, il Radio Rock messo in onda tre volte al giorno on Radio 2 The Moving Station. Oggi parliamo della musica napoletana e in particolare dei 99 Bossi e degli Alma Magretta. È stato presentato alla libreria Feltrinelli il testo di Lello Savanardo intitolato Nuovi Linguaggi Musicali a Napoli, al quale hanno partecipato Marco e Meg dei 99 Bossi e Gennaro Tesoni degli Alma Magretta. A Gennaro abbiamo chiesto se questi gruppi potevano nascere in qualunque altra città e ci ha raccontato che secondo lui il grande melting pot di Napoli li spinge ad annullare il gap tra il passato, il presente e il futuro. Hanno assorbito tutte le influenze dell'estero, però vivendo a Napoli sono riusciti ad aggiungere lo spirito contemporaneo e moderno delle città. Questo spirito non si trova in nessun'altra città. E a proposito del libro, hanno dichiarato: sfidiamo qualcuno a leggerlo e non a appassionarsi. Vi ricordiamo il nostro website www.radio2.it. From Tam Tam Europe, our news desk in London, and from Fergal Kavanagh, vi lascio con l'ultimo singolo del 99 Bossi, un vero nuovo linguaggio musicale di questa città. Questo è L'Anguilla, alla prossima. Tam Tam Europe. Precoce che mi hai preparato il mercato è già pronta, padelle sul fuoco, ma so come anguille, picciò cambio gioco e mando a fanculo il tuo mercato di gente per bene, fatto di video e canzoni per bene, ma buone per la tua realtà virtuale, la radio e la tele, ne sono piene di facce serene, rassicuranti, che van bene per tutti quanti, mamme, bambini, ladri, assassini, gente per bene, che si offende se dico bene, e poi votano a Berlusconi, Prodi di Mirare, ma Pini, mo se porto pure a Bonino, e papà, mo cattiva e morte, tutto quello che c'ho da dire, a torto ragione, il fatto è che non so per bene, la mia faccia non è serena, ci vuole tutti quanti allineati e sorridenti a lavorare nella grande catena di montaggio sociale nella quale io lavoro da anni e sono tanti anni che voglio sabotare, sabotare, sovvertire, questo è il mio lavoro e questo è quello che so fare, sabotare, sovvertire, questo è il mio lavoro ma non lo puoi capire, sabotare, sovvertire, sabotare. Non avete mai, non avete mai, come volete voi, come volete voi, non lo riavete mai, come volete voi, non lo riavete mai, come volete. Promette miracoli, parla di money money, soltanto money money. No, non puoi fidarti di chi parla solo dei soldi. Al tuo bene non pensa ma a quello dell'azienda. Sì, no, no, tu non credere a chi parla di marketing. Quando parla dei sogni e delle tue passioni, no, l'estro ti è da manuale. Su di me non le puoi applicare, quante volte lo dovrò spiegare. Tu usciterai a pensare che dalle folle vi farai clamare. VIP potrò diventare, tutti al circo a scenografare con la tigre di domatore. Ma che cosa ci posso fare se non mi lascia ammaestrare? Sì,